Ma meglio, meglio niente, va. Perché? Secondo te è una cosa? Una via una, gnogno. Vai uno. Ma più gridato, una mezza bottiglia di spumante. Un oggetto. Cosa da cucarmi? Certo, sta fatto ora, effetto drumettorio. No, proprio no. Guarda che a me non mi frega niente di festeggiare il Natale, ma per me è un giorno come tutti, capito? Infatti mi hanno detto, dammi una mano, c'è cioè, questi gamberi, avevo anche il desiderio, una gamba, mi sono fatto ancora un chilo rotti, un chilo in più da cucinare ancora, però quindi me ne faccio il caponato. Abbiamo mangiato anche noi. I gamberi, aspetta, L1 di grandezza, argentini. So buoni già. Cazzo, dummi uno, ne ti mangiato 6, 7, 8, grandi Ha già tu pure organi. Cazzo, ma ho visto una bulla di vino a remare. Fumato hai, no? Fumato hai, no? Fatto, cosa sono il sigaretto? La roba è già accenta, non c'entra niente. Ma niente, anche se smette, poi una sola fuma, capito? Una così. Ah, io no. Non ha tutti quel punto della sigaretta. Cioè, al momento non mi interessa, poi chissà. E riprendo, e ribussi di qualcosa, e capita, vengo da gente a fumare, mi prende l'attimo, poi non mi passa, quando mi piglia qualcosa di, non di fumata, però la porra, sai, di, cioè ti prende un coso dentro, no? Poi bussi, no, e vivo ogni anni, ma, dopo che tieni giù la ricottina, non mi cattini 10 bussi. Io dico una cosa, io la sigaretta non l'ho mai più cercata. Il vino era birra, cioè, probabilissimi, ma un giorno di festa pure perché i soliti non bevo mai. Ma io sigarette, tutte cose, per non ne ho più cercato, non ne voglio manco più sapere. Però sono passaggiato di balle. Io conosco gente che ha 15 anni senza fumare e poi ha ripreso. Questa conosco io. Era più di 15 anni. Cosa da fumare adesso? Marlboro Rose. Io dico, questi gatti vado a fumare le sigarette. Ma peggio fai se fare un capomacco. Se uno ci mette una pietra sopra, l'ha già provato. Deve dire basta, cioè no. La sigaretta non c'è più, non esiste più. Oramai. Ma siccome ti non va nel capo un corpo di nervoso, cosa vuol dire questo corpo di nervoso? Non ha nessun significato, un corpo nervoso ti viene di cui di cagnotti nella pedagliana e poi ti basta tutto, come che fossi lì, come è tornato prima. No, non ne voglio manco sentire di queste cose. Non è quello, di prima gli trovi anche. Io sono stato un po' maluccio, un mesetto buono buono, mamma mia, i nervi, cazzo, guarda, però poi già passato. Va bene, la sigaretta maledetta, fa un po' di danni, tutti i danni. Poi se uno proprio non sbatte niente, non proprio non dice che buono che se l'ha fatto, allora boh, prova, tanto ho capito. Poi se uno vuole campare, poi magari molte volte non è che la sigaretta, attenzione, molte volte la sigaretta a seconda della persona gli fa danno, a seconda della persona non gli fa danno, capito? Mi poi la fisica a fisico. Dipende da testa a testa, dipende, non da fisico a fisico, da testa a testa. E io dico che quella cosa non deve andare più, non deve andare più e basta. Cioè, è inutile che siamo lì a citarla. Oramai io l'esperienza l'ho fatta, cioè, ho fumato tanto cicchia, ho provato tutte le sigarette immaginabili, perché ne ho provato tantissime, poi sono rimasto alle Diana Rosse. Allora, ci l'hanno fatto tutti, non ne voglio più sapere, perché è giusto che sia così. Tutto ciò che comprarmi le sigarette, mi compro un pezzo di formaggio che mi piace, è per dire. Ma in confronto tu a me, cioè di me, per quanti anni hai fumato? 6 anni, 7, quanti anni hai fumato? Ma adesso basta, no? Non lo so come è con una persona come l'altra, per me quella è finita, non penso che non ce ne entrerà più nelle mie tasche sigarette. Ci ho smesso perché non ci voglio più tornare, che se ci torno sarei uno stronzo, me lo direi da solo. Sì, ma per quanti anni hai fumato? Io? Sì, stato 5-6 anni. Ma non vuol dire nulla, cioè non mettiamo questi discorsi. Se uno smette e basta, cioè è finita, è inutile che siamo lì a girarla. Può fumare uno anche per 20 anni, se uno dice di no, è no, può finita. Cioè è inutile che stiamo con questi discorsi. Uno deve smetterlo e basta, punto. E già volevo dire gli anni, non è così, non ti dico tu, capito? È così, ma non è facile, dipende, da come penso uno. Allora, a me, io non ho avuto quel problema lì, quel problema di mio ragazzo, se non l'avrei smesso io. Che problema che non è un questo grande fumatore, comunque, dipende, a giorni, capito? Vedi, fumavo quando magari con qualche bottiglia di birra in più, allora ci sia qualche sigaretta in più, però poi del resto tutto occhio, non è che io sto dando il fumatore, ma mi ha fatto qualche male e ho smesso, se non mica avrei smesso io, assolutamente no, però a te il problema non te l'abbia fatto. Ma lasciala perdere, che non è quello che serve per vivere. Ma fai che mi sei uscito, non vedrò mai più, finito, mettici una croce sopra. Oramai è provato e tutto. Io me ne sono accorto anche lavorando, non ero più io. Adesso, da un po' di tempo a questa parte, sono tornato io. Cioè, se no, un bedini non aveva manco gas. No, non andava più bene, no. Allora ho detto, ci ho messo una croce sopra. Ho detto, no, basta, è finita. Ci sono riuscita, non ci voglio, non penso di non volerci mai più tornare. È quello. Cioè, se ci tornerei sarei uno stronzo che non me lo potrei mai perdonare. Tutto dipende da te, non dagli altri. Dipende da te. Aspetta un attimo. No. Anni, tu, non si è sentito? Negativo, io non l'ho sentito per niente. No. Oh, avrà entrato. Non lo so. Avrà entrato, fa un po'. E ci sente già entrato. E così è Luca, se uno dice di no, deve dire di no e basta, tanto ci sono altre cose da fare, no? Se uno si dinare la sigaretta, poi ci sono altre cose belle nella vita, la sigaretta non serve a niente, serve solo a portarti rompimento di scatole senza soldi, magari non ti puoi pagare una cosa, no, io piuttosto che comprarmi adesso... L'altro giorno, piuttosto di comprarmi le sigarette, mi ho pigliato una fetta di ghiaccio e me la sono mangiata. Cioè, la stiamo mangiando piano piano. Messa forma, tutta mia. Cosa mi ha avuti, un chissà cosa, cioè, ci sono altre cose da mettere a posto. Lo so, vabbè. Assolutamente, ma dico, ci sono persone, adesso per esempio, quando qualche anno fa non conosco questa signora, no? fatto il problema della sigaretta, ha visto che non ha futtuto, la sigaretta non la molla, di dopo non la molla, ha questo diretto di grimba, però la sigaretta non la lascia. Bene, bene. Oh yeah, per carità, guarda. La pensi così che camperà molti anni. Guarda, non tu vedi il problema. Ciao, guarda ragazzi, cazzo di sigaretta. Guarda, ce ne troveremo tutti meglio, se ce la molleremo. Io ho fumato quello che questo non meglio. Io ho fumato e anche molto, e molte sigarette, ho fumato, ho provato di tutto. Però adesso che ho smesso non mi interesserebbe più di. Non mi interessa più riprovarci. Poi ho riaccettato sul piatto che ci avevo qualche annetto fa. Io me ne sto accorgendo che anche fisicamente sono cambiato. Quindi non mi interessa più. Io voglio entrare nulla, ma dipende anche dal fisico della persona, capito? Dipende. Se la persona ha bisogno di quello, non mi interessa. E invece come mangi in due mani, forzo. Oh yeah, non è nulla, no? Tagli le luci, bubu. Cosa tagli le luci? E buona per le sigarette. Oh, ma niente, la sigaretta non sto fumando in antuno, assolutamente. Mine. Ho detto mangiato, tra ieri e oggi. Comunque. Meglio una cosa che ti piace che quelle maledette cose, la fumiga tutto. Non che era una ghea, carica. Poi. Penso si respira. Ero sempre al baracchino. Sempre a portacene nel vatto, una dopo l'altra, una dopo l'altra, ma vai non ammara. Fuglia! Io sto fumando in camera. Fuglia! Non mi trovare. Dicevi già poco, mi devo del collo. Io ho dormito male, se la... mi ci davo e si voleva riparare, mamma mia, avevo un sonno, poi ero raffreddato, e vabbè, mal di gola, no, non ti mi dico. Una pagata, una vasca terribile queste cose, comunque c'è freddo pure, è abbassata la temperatura, ho fatto la finestra poco fa, mamma mia, è di freddo, oh mia. La salva, manco vogliamo bombole, quello, è fatto, non so che spazzetti, un bel palo. Quest'anno è andata un pochettino male, non ne abbiamo venduto quanto l'anno scorso. Ma cosa mi dici, ci ha attaccato il San Maragossi di Medea? Ma hai avuto, ti manca la bomba di domenica. Adesso per esempio, oggi che festa, chi fa la bomba? Invece lì non manca mai, e sarà più caro, quello senza mai di dubbio, però lì non manca mai il gas. No, non è più caro, quello è il problema. No, non è più caro. Negativo. Il prezzo più o meno è quello. Cazzo. No, è di meno, il gas è sempre di meno, come quello del bombolone, è tutto di meno. Non è più caro, vabbè, ma la bolletta ti spara un'altra al mese. Se la spara un'altra che chi sa cagliaia, chi sa che cosa amara. Però la fattina non è neanche caro, se fai una proporzione con la bombola, mi vuole 4 volte di più. Allora, noi più o meno, non sempre, ci fa un mese, neanche. A secondo, dai, la bombola a 10. Già va bene. un mesetto o di meno? Se si tratta così un mese va bene. Allora ci fa un mesetto, capito? Pesa poco. No, no, ma è giusto, regolare, se cucinate tutti i giorni. Sai che è proprio una volta al mese, dai, due, come nella pizza, ma non è sempre. A secondo, dai, se la roba male ricette un po', come per la pizza e via. Se lo cucino, diciamo che c'è anche il cane, mi ha cucinato anche la pappa a lei, ho capito. E anche lì c'è il consumo, vabbè, anche se non è molto, però qualcosa di consumi. Casino, ragazzo, bah. Oggi non sei uscito? Cattivo, tutto il giorno a casa. E la tua roba cosa di fosse? Cioè, da stamattina al baracchino ci sono, poi non ho parlato a volume basso, non c'è nessuno però, neanche nell'altra frequenza, vabbè, ma curanima. Che cazzo, no, io ero solo addormentato quasi tutta la sera. Ah, dormito, sono riposato, lo sai ancora. Ci vuole riposo, ma tocca. Ecco, uscirò domani. Io lunedì, qua a casa. Caffè, domani mattina esco. Aspetta un caffè. E già. Caffè, già arriva ancora passeggeri. L'unico posto aperto mi sa che è giù a San Giovanni. No, i genitori vanno aperti, e ha voglia. Cazzo! Ti hanno acciati, ma bici, e ha voglia. Non scappa, oggi, cioè, noi andiamo sempre, quasi sempre lì. Cioè, oramai conosciamo, eccetera, eccetera, ma chi ha detto? Ma di positivo è il caparoge, no, sono un bel gamba, sono, già ci si può entrare perché sono molto in gamba anche come persona. Chi? Già San Giovanni. Ah, insomma, iaia. Stanco, quando mangio mi viene rabbio come me. Ah? Dico, quando mangio mi viene rabbio. Rabbio si sta venendo. Sì, no. Ma che? Voglia. Gappa. Per fortuna ha dormito tutta la sera. E chi ha dormito? Boh? Se ne parla tardi. Caramba. Ha dimagnato dove, quindi non me la fossi nulla. Aspetta un attimo, Anto. Attenzione sul 21, Gabba. Eia, prova microfono, Gabba. Ma Giuseppe, mi aspetta un attimino che sto entrando a QTH. Positivo e K di Roger. Positivo, dai. Eia, dimmi. Positivo. Si sa, aspetta un attimino. Entra tra mia sorella. Tranquillo, non ci sta problema, non ci sta problema, cava. Beh, allora Giuseppe. Ehi, non mi mese, mo mi sto facendo un paio di foto che ho messo, tirato giù tutta la strumentazione, no? Che è tutto atteso, ma è un albero di Natale. Il computer è acceso? No, negativo, gli apparati tutti accesi. Gli andava. E gli ho fatto un paio di foto, Antonio. Poi se riesco te li faccio vedere. Cosa gli hai fatto la foto? Via, tutti gli apparati accesi qui. Per mettere su Facebook? E su Facebook o tramite posta elettronica, a vedere come è uscita la storia qui. Esce bene. Aspetta un attimo che entra il TH. La... Ehi, due minuti sono, Cava. Eccomi qua. Eccoci qua, tutti riuniti, oia. Mamma mia, bisogna spegnere un po' di cosa qua. Oh, ero sempre col coso, adesso la faccio, adesso non la faccio. Adesso la faccio, la foto. Palla. E palla, di zietalle. Fa. Vedete? Decisi. Cappa, decisi e concisi. Ma che va? Poi queste sono cose che rimangono, Non credo che rimangano. Cava. Cappa. Non vedo l'ora di provare quella situazione che ti abbiamo spiegato. È positivo, basta mettersi e si sistema, te l'ho detto, un'oretta e mezza, ma con calma mi prenderi così fatti bene. Pneumatico c'ha quei cosi sotto, vero, intorno in fondo, quel coso marrone. Il coso pneumatico, diciamo che è la sospensione che tiene la membrana, Antutu, la membrana del coso, la membrana dell'altoparlante, quello che c'è intorno, lì è tutto quanto a sospensione pneumatica. Infatti già ho capito. Si vedrà. Ma in genere c'erano tutti queste sospensioni pneumatiche. Non credere, non ce le hanno tutti. Non ce le hanno tutti, Antonio. I cosi buoni sono tutti a sospensioni pneumatiche. Se tu vedi quelli da due soldi, sono senza la cosa, senza la guarnizione. Che se poi tu la tocchi appena appena col dito con la guarnizione, si sente come che sia piena d'aria dentro. Chiappa. Infatti è vero. Io ti dico che per carità, sto qua a parlocchi, Eia. Quelli lì, quando lavora la sospensione, poi già lo vedi tu stesso come l'ammortizza. In pratica è come una sorta di ammortizzatore, tutta quella membrana che ha intorno. Sì, ho capito. Tu hai visto sub come fa? Tu guardalo bene. Guardare il cono, ma guarda tutta la guarnizione che ha intorno con la sospensione e vedi un pochino il lavoro che fa. Che ha pagato. Sì. Già l'ho visto già alcuni. Sospensione, cioè, normale, per carità. Penso che si deve fare lì. Break. Registrato il break e lo fa. facciamo subito entrare il doppio room. Buonasera. Buonasera a tutti, dai. Rinnovo gli auguri a Antonio. Giuseppe, li ho già fatti di nuovo. Buonasera a tutti, dai. Avanti, Antonio. Auguri anche da parte mia, già. E beh, com'è andata ieri? Sì, appena di sbandare. A sbandarvi? Ma buono era quel film? Sì, era una fasia di posa, non era al massimo, ma... Vabbè, tu dazzo su, l'ha fatto, dai. Avanti, Giuseppe. Cavagava. Beh, la boccia non è male, no? Con la Malvasia di Bosa, è un ottimo, dicono che sia un ottimo vino. Dove c'ero io c'erano vini di Usini, di Sorso, di Nuvolo, della di Nuvolo, insomma, per venire lì ti ricurono. Dove c'ero io lo stesso, c'erano diverse qualità di vini, ma già sono rimasti nella bottiglia per quanto mi riguarda. Ma io ne ho assaggiato uno che era frizzantino, tipo spumante, tipo quello di Tempio, là. Però non era di Tempio, era del Nuorese. Ma era veramente buono, l'ho gustato appena per appena. Solo che sempre quello lì c'erano il vizio di riempirsi il bicchiere, ma gli è rimasto lì. Quello è un classico, quello è un classico. Però purtroppo non si può bere, bisogna fare la brava. Poi c'è lo smaltito, sono andato alla messa di mezzanotte e ho smaltito. A messa di mezzanotte si è andato. KK. Andrà bene, bene. No, io già le ho sentite le campane solari a mezzanotte meno 10. No, io sono andato a ottava a messa e c'era anche barra agricola. Oh, caspita. KK, ci siamo fatti gli auguri in verticale. Quindi vi siete tutti sbacciucchiati. KK, sì, ci siamo fatti gli auguri in verticale. Era bella la messa di ottava, era bella perché poi a un certo punto, Giuseppe, si è creata un'atmosfera e mancata la luce di colpo. Il prete ha dovuto leggere uscendone negli occhi, però ha letto. Ecco come un trodio. Dai, via con la prima da quando la fa una cosa. sempre vedo. Cavagava. Se non dirti la sua, Antonio è una cosa che non si critica. Capasa e Trumbasa. E via, via. Stavo facendo un giro su internet. Ho trovato quella cosa che è interessante, Giuseppe. Tipo? Cos'è viatore Dante? Ah, è la modica cifra. 18 euro. E spedizione altri 10. Vabbè, non si sa, non siamo in Sardegna, a meno che compri qualche altra cosa, se bisogna pagarla, non ho guardato però, ho proprio di sì. Vuol dire che aspetto quando li racino. Stavo guardando per l'apparato, per la macchina, a quello là tutto fatto... Quello è di esportazione, tutto fatto con eco, eccetera, eccetera. Costa 370 euro. Anche io ho visto qualcosa, ne ho visto anche da 600. Oh, cavolo. Ma quello di esportazione, quel B6 di esportazione è bello, Quello lì non è bida di coipi e non è nemmeno rumori senti in macchina. Se è fatto bene, per forza di cose deve girare bene già. Per forza di cose il suo lavoro lo deve fare. poi tutto regolabile, puoi abbassare i watt, se compri il watt se li puoi abbassare, per regolare anche a 5, diciamo che c'è un po' tutto, luci blu, ecoconto, ma quello lì è fatto dalla fabbrica proprio così, non è fatto da CP1. Cava cava, e allora cosa stiamo aspettando? È troppo costa. Troppo costa, ha fatto più degli occhi e ci si butta già. E poi c'è il pagamento con PayPal, è quello che non mi va. No, io quella non ce l'ho, quella non ce l'ho. Io ho fatto quella PostePay e quell'altra, quella che carico dalla banca, adesso non mi ricordo come si chiama. E la carta, aspetta, come quella del telefono, la stessa cosa, la ricarichi quando vuoi. E KK, la metto, la infili nel coso, nel bancomat, no, e la ricarichi lì. Però non mi ricordo, ti dico la verità, come si chiama. Carta ricaricabile, qualcosa del genere. E già lo so comunque come funziona. No, quella PostePay la puoi girare, da PostePay a PayPal. Beh, contrassegno non ne accettano più questa gente, eppure sicurissimo, perché se non dai soldi non ti danno apparecchio. Ma loro pagano due volte la spedizione, capito qual è il problema? Se tu non l'accetti, nella rimandare indietro devi farlo ripagare il viaggio. Sta diventando un po' antipatica la cosa comunque. Sì, infatti, se lo faceva con la segno, non ci avrei pensato manco due volte. Ce n'era un altro che usciva con 10 watt, te lo davano già pronto, luci blu, 10 watt, non ci aveva l'eco, però non me ne frega nulla perché l'eco già c'era il microfono. E niente, ci aveva sempre il problema che non te lo davano in contrassegno. Mannaggia, vedi, quelle sono cose che un po' mi scocciano, se devo essere sincero, perché se la persona è veramente interessata, perlomeno io mi ci trovo bene pagando così. E anche io addirittura gli ho fatto una proposta a uno, se me lo mandava che l'avrei comprato. Metto, mi dispiace ma non posso. L'unica forma di pagamento è PayPal. E sicuramente allora l'avranno fregato qualche volta il tipo, a essere così diffidente. E vabbè, faccia come le pare, se lo tiene. Sì, arrivati a un certo punto, per forza di cose bisogna fare così, forza di cose. Io ho visto lo stesso alcune cose già dall'altro giorno, no? E secondo me come prezzo era troppo, infatti nessuno ha acquistato, ho visto poi stasera, siccome lo stavo tenendo d'occhio, mi è arrivato il messaggio che stava per scadere, no? Infatti ho aspettato all'ultimo minuto, visto che il prezzo è rimasto sempre lo stesso e niente. Adesso se lo rimette sicuramente abbasserà, perché cioè, questa gente qui non è che gli puoi far fare quello che vuole arrivati a un certo punto, perché ci sono dei prodotti che il prezzo è altino nonostante tutto. Ho visto addirittura un Midland, un 48 normale, 238 euro, una cosa del genere, ma questa non ha finito. L'ho venduto a 150, io nuovo, Giuseppe. Sì, ci credo. Ha ragione in più per dirti che se lo tengano, poi se l'asta la vogliono rifare o lo vuole rimettere bisogna che si adegui. Beh, se Torino li avrebbe ordinati quelli di esportazione, magari un paesino li avrebbe dovuto fare perché era qua a Sassi, quello poi porta le stelle. Bisogna vedere anche se ordinandolo il prezzo lui lo tiene qua, ma non credo. Se costano 3,70 su internet lui ce l'avrà minimo di includente. Più che chiedere già, più che chiedere, hai dato anche un'idea, più che chiedere non si può fare, perché cioè, arrivati a un certo punto, domandare, come dice quello lì, è lecito, no? Poi rispondere secondo la testa sua dovrebbe essere cortesia, e vedere un pochino che presi può fare, però bisogna vedere anche che agganci c'ha, magari qualche aggancio, magari un aggancio particolare potrebbe anche riuscire a prendere a un prezzo favorevole. Come qua? Qua a me sono entrati a vedere chi sono, come sono antipatico, in piedi. Ha una faccia così di merda quel ragazzo, che vedevo che così un cagnotto a faccia, come ti rispondo. Massimino. È un coso, è un permaloso, un antipatico di prima qualità, quello proprio non ci sa fare col cliente. Il carattere, guarda, della persona molte volte, spesso è tutto. L'altro giorno, come mi ha risposto così, mi stavo irritando, stavo per prendere la voce, poi ho detto la lasciamo perdere, se no qui ci passo io per caffone. Quello è normale, perché riterrappa poi è cliente, poi sempre dalla parte del torto, secondo come rispondi. Come? Eia, avanti Anto. È un po' guardato, chi so. L'altro giorno gli ho chiesto un'informazione. Guardi che qua lo stiamo giocando, non so che cosa c'è gente prima di me, questo e quell'altro, ma guarda che pezzo di cavolo. Mi stava servendo Tonino, poi ha dovuto mollare perché hanno telefonato, ho detto guarda che mi stava già servendo, ha mollato perché ti tocca a me adesso. No, io sto servendo gli altri clienti, che lui stava servendo Tonino. Bene, basta. Si è andato. No, non mi so che è andato, aspetta a Tonino. Parla con lui per quelle cose, insomma, non comprende manco un H, non mi comprende. Guarda che sa faccia di Marco, guarda. Questo non ne comprende nulla di queste cose. Tonino già qualcosa già razza. Beh, Tonino gli stava anche gli apparecchi, quindi già se ne intende un po', e modulava pure. Non è più entrato. Come si faceva a chiamare? Boh, non me lo ricordo. Tonino, io lo conoscevo sempre come Tonino. Ah, certo. Dopo ha mollato. Vabbè, dopo sì. Quest'aria strafottente, quel ragazzo, guarda chi... mai. Oh, non ne comprende un H, ragazzi. Ma poi fa quella faccia, già, la bella faccia qua, già ti vede voglia di... Ma faccia di cavolo, sembra che ti dai, che tu gli debba qualcosa. Io penso che sì, persone da... Non sto dicendo da tanto tempo, ci sono persone che vorrebbero allontanarsi dal pubblico, proprio non possono lavorare col pubblico. No, proprio arrogante, non... Boh, manco. Hola. Un'arroganza, estrema. Già due volte che mi fa una cosa del genere. Ma che chi dica due sue cose, la ve lo dico. Che il cliente gli dà da mangiare a lui. Se tratta male il cliente, non mangia manco lui. Già un credo, tu pare che li deve. Ho certe persone, mi deve dire tu, vai pigliami un pezzo da... Vai pigliami una cosa. No, vedi, certe persone a contatto col pubblico proprio non va bene. A me mi ha irritato l'altro giorno per come mi ha risposto, dico la verità. Non sembra manco un venditore uno che risponde così, sembra un carriaggio. Oppure dice la cosa, non capisce niente, cioè uno che è tanti anni lì nel settore della cosa, per cui c'è da tanto, cioè no, gli domando una cosa, non mi comprende nulla. No, non è adeguato per queste cose, lui ha detto la vedete, no, se non ti sa dare un consiglio né nulla. Avanti Giuseppe. Sì. E gli a bianco un attimino per me. No, lui è andato qui, dice di molte persone, proprio è adatto, mi vai prendimi una colonnina, vai prendi un baracchino, cioè vai prendi un microfono, vai prendi quell'altro. Però al contatto col pubblico molte persone non ci devono manco stare. Lasciamo così, ma se non trovi più... Si dice in sardo, somine è fatto, figliere. Ma sai cosa vuol dire un sorriso, oppure dirti un attimino, scusi un attimino, che sto servendo il cliente, un attimino può aspettare che avere un po' di gentilezza, no? Non dirti scorbutico, stiamo giocando, allucinare, una faccia di merda fa, guarda, un esaurito davvero. Troppo, no, non esiste solo l'inno per persone del genere, ce ne sono tante, ce ne sono. Bisogna anche sapersi comportare qua, lo sai perché non si vendono le cose, perché c'è sempre gente che a contatto col pubblico non riesce a avere un rapporto come ce l'hanno da altre parti. Quando uno fa un sorriso, fa una battuta, attira il cliente, ma quando uno è così facifeo, deve avere problemi quel ragazzo, ti risponde sempre male quando gli chiedi la cosa. Non è a gana di lavagliare, già noi prendi nulla, cioè fa cosa, chi vede la porta da signorine, in più si comporta già pure così, non c'è niente da dimenticare, guarda, il pubblico, non può stare una persona col pubblico del genere, cioè, ma c'è come c'è anche in ditte grosse ce ne sono di questa gente qua che il contatto col pubblico non fa proprio. Poi mia Pierpaolo, alzati Pierpa, buonasera, Giudita Pisatini, non ho capito la Pierpa cosa ha detto. Sì, è un freddo pura. Peppino, Peppino, dove sei? Eccomi qua. Attenzione, vela, se vai copiando Giuseppe. E vai su ancora di mezzo parte e riesco a tirarti fuori anch'io. Cosa stai provando? Riesco a tirarti fuori Pio Pio, Pierpa. Sì, sentito, già ti ho sentito, però non riesco a decifrare bene quello che dici. Ci sono delle parole che riesco a capire, però delle volte col QRM non riesco a copiare bene. No, troppo QRM qua in cuffia. Allora, ha detto a tutto il pigiamone che andiamo a farci un giro a Plattamona. E magari gatta del macurunudo da voi. Ma non hai visto al telegiornale quelli che ci hanno fatto il bagno a Cagliari? Io ho visto quelli che ci hanno fatto il bagno al telegiornale, stavano rompendo la lastra del ghiaccio che si era formata in quel lago. Mamma mia, cara. Finlandia era andata a un ghiaccio. Poi che quelle gente fuori di testa. Comunque, poco fa, per la cronaca, questo lo dico, e quando ho messo la macchina in garage stava segnando 4 gradi e mezzo. KK, ti confermo anch'io, perché quando sono andato via da mia suocera ha cominciato 5 gradi, anzi 5 gradi e mezzo, poi 5 gradi, poi è arrivato a 4 e mezzo. Poco fa stavo acceso ed era a 3. Ma speriamo bene, per fare il pupazzo di neve. A fare il pupazzo di neve? Pierpa, se tutta questa voglia di uscire, usciamo, ma bisogna farci il falò, Attenzione che con la speranza che ascoltate la radio vera, che non mi... Ecco, adesso mi devo abbassare il volume in cuffia. Positivo è il capo del Roger. Dove succede la cosa? Pier Paolo. Dica. Ma ieri notte cosa è successo vicino, non so se lo sai, c'era la strada chiusa lì che cominciava dal semaforo di coso, della BDV di là, per entrare a Lattelolci. L'incidente doveva essere a livello dell'incrocio dove giri tu per andare a casa. Semaforo, dove è semaforo? Semaforo è giù. Hanno chiuso da giù, da dove c'è il semaforo lì, fino ad arrivare all'incrocio con via Chilorno, via... che via è quella della Cobra, che via... Via Lungo di Mare, boh. Perché ci sono semafori per entrare, non c'è più semafori per entrare, ma andavo di butti giù. E allora, io stavo salendo dalla Budi Budi, come se stessi prendendo la Platamona. Al semaforo c'erano i vigili che praticamente ti facevano deviare verso l'altra parte. Praticamente non si poteva andare dritto. Facevano girare a destra e l'incidente rimaneva, perché si vedevano i lampeggianti, tutto quanto, rimaneva proprio dove giri tu quando entri per andare a casa tua dalla Budi Budi. Non lo so, aspetta un attimo, è qua, la spina del televisore perché si sta accendendo e spegnendo. Porca. E comunque a livello dove è successo quell'incidente, l'altro da poco, nemmeno da molto, che è morto quell'uomo che aveva avuto quel male, se si è svolta l'altra macchina. Qui, in quel punto lì. Non lo so, non c'è entrato la recensione, qualcuno, intanto qualcuno ha entrato la recensione. Ah, comunque chiudere la strada è strano, eh. Vabbè, c'era il carro attrezzi che stava lavorando. Sicuramente, no, ma ogni tanto qualcuno prende quella recinzione. Non si accorge che c'è perché c'ha gli occhi chiusi. Di che recinzione state parlando, se non sono indiscreto? Di quella della strada della Budi Budi che stavano, che dovevano finire dall'estate scorsa. Cava, cava. Vabbè. Lì se c'è gente buona a indennizzarsi, io dico che al sindaco anche la pruna gliene era scesa. Quella è la parte comunale, mi pare, brutta. Ia, ti sto dicendo che... Ma lasciamo le cose così, dai. Fino a quest'estate. La cosa è in pieno. Ma stai attento, però, che non ti succede. Se ti succede vuol dire che non sei stato attento. Oppure sei gutto. Oppure la strada che ti permette anche di uscirci, perché la Budi Budi effettivamente io l'avrei chiusa del tutto, perché quella strada lì va a finire che qualcuno si fa veramente male. Beh, per come adesso sì, Giuseppe. A parte di giù, addirittura hanno fatto spostare il lastrone in cemento perché era troppo stretta, quando hanno avuto i sette carabinieri l'hanno spostato. Eia, e non è quello che sto dicendo, proprio quello che io sto dicendo. E il discorso è che lì se uno gli succede qualcosa conviene indennizzarsi e niente. E fargliene cagare sino all'ultimo centesimo a questi signori che fanno, disfano e giocano anche sulla pelle degli altri soprattutto. Insomma, quanti restaurare deve durare da A, deve avere un tempo, non è che può essere una cosa fissa a intralciare il traffico e cosa. Lì basta che tu fai ti stringa una macchina che ti sta sorpassando, ti stringi, tu ti butti appena appena sulla destra, prendi appena appena quel rastrone in cemento e ti ammazzi e che si gira la macchina. E lì. Già, come c'è la Giuseppe, guarda che molti se lo meritano di autodistruggersi. Tipo quel BMW l'altro giorno, quello se lo meritava tutto quanto, non solo di distruggersi, ma anche di spaccarsi lui. Eh sì, su quello ti posso dare ragione, però io dico la stragrande maggioranza della gente e quella strada, bene o male, la usa o chi per recarsi al lavoro, oppure gente che abita lì firma, e non mi sembra giusto per tutte le tasse che stiamo pagando, per tutto quello, tutti i cosi che stanno mettendo sopra la macchina, iniziando dalla benzina e finendo all'ultima tassa che andiamo a pagare sulla macchina, e che noi possiamo avere una strada come quella. Perlomeno io, volendo, potrei fare anche il giro dalla 131 e non è che mi interessi più di tanto, però è anche una questione di correttezza nei confronti della gente, nei confronti dei cittadini che pagano le tasse, perché loro i soldi delle tasse te li pretendono, come noi pretendiamo e abbiamo preteso, e infatti la strada è ancora così, che la Buttibuddi, visto che avevano progettato la quattro corsie, che la quattro corsie fosse stata fatta, invece niente da fare. Allora avrebbero fatto meglio lasciarla come era, tanto della situazione. E su quello sono perfettamente d'accordo con te. Tanto la Peppina sta creando solo problemi, e ormai sono degenerati, ma comunque ci siamo abituati a vedere il strade così dopo 10-20 anni. Ci sono tantissimi incompiute, figurati. Eia, ma io dico questo. E se noi non paghiamo le tasse, cioè ti ammazzano di coso, e ufficiale e giudiziario, e o ti arriva la cartella esattoriale raddoppiata, se no quintuplicata o come palla lo vogliano chiamare, no, sino a poi se uno non paga col sequestro della cosa. Ma io dico questo, loro che potere hanno per poter imporsi alla cittadinanza per dire la strada non è finita e a noi non ce ne frega niente, cioè della serie tu continua a sfasciarti la macchina perché ultimamente non so se l'avete fatta voi la Buttibuddi e poi dietro casa tua Pierpa, anche lì non ci vuole la macchina, in quel pezzo ci vuole l'elicottero. No, infatti non ci sto passando più nella mattina, se non rientro quel pezzettino alla rotatoria a rientrare dentro la trovi, però da giù non sto più passando perché è proprio pessimo. Eia, ed è giusto che tu debba fare il giro dall'altra parte? Non sarà giusto, però anche adesso quando devo andare a San Camillo, per quello che tu sai, la mattina io non passo lì, praticamente salgo su di là dove c'è il tabacchino, entro dove c'è quel parcheggio, ne esco nella prima rotatoria e poi tiro per sorso. Hai visto? Non ci passo perché soprattutto il pezzettino è qua, è una tortura. Già c'ho quelli di dietro, quelli davanti sono loro, ma quelli dietro sono un po' scarichi, e figurati. E si conferma, Pierpa, però sono sempre botte, anche se gli ammortizzatori sono carichi, sono sempre botte, sono sempre sollecitazioni che sta prendendo la carrozzeria della macchina, che una persona che sta regolarmente pagando il bollo, si sta regolarmente pagando l'assicurazione, sta regolarmente pagando tutto quello che deve pagare un cittadino onesto, non merita di avere una strada così. Magari sarò io pignolo, sarò io rompiballe, però io le cose le vedo così. Però guarda, ti dico una cosa, noi imputiamo molto la strada, però purtroppo gli utenti non è che sono così quelli affariosi, perché adesso che io viaggio lì a San Camillo, guarda, te ne posso raccontare già delle belle, che sorpassi in curva, nella strada in cui si trova anche quella lì, che non è buona, tu lo sai, la conosci, sorpassi in curva, te ne vengono da davanti che ti occupano la tua carreggiata, abbaglianti a tutto andare, la mattina presto, guarda, tutti con gli abbaglianti fissi, non te li tolgono neanche, forse sparando la bazooka riesci a distinguerli. Però guarda, anche in quel rettilineo per entrare a Cosa, nonostante che ci sia, e c'è la segnaletica, c'è la segnaletica, ci sono le palle sole per rallentare, li vedete, ne escono da quell'ultima curva per il rettilineo venendo da sorso, a maretta, non ne frega niente. Eia, già lo so, per la voglia, se lo so, già lo so, gente debosciata se ne trova da tutte le parti. Però una cosa ti posso dire, che quando mi beccano in camion rientrano subito. Lo so, guarda, ne ho incontrato un rondino con un paio abbaglianti, che più lo se avrei avuto il bazooka l'avrei abbattuto. E si conferma al 100%, perché quelli, guarda, è la causa maggiore degli incidenti, essere abbagliato. Sì. Prendete la doppio rum. Via. Ce l'hai tutti i colori, quando viaggi su strada è così. Molte volte da mattina quando stanno a lavorare lì, effettuano sorpassi anche se ti vedono arrivare, tanto se ne attentano. Sono attento, cosa, ma non è, infatti ormai fanno tipo la ruota russa, no? Ha detto che poniamo la cartuccia, ha detto, ho rapito da tamburo, giravano tamburo, anche dopo loco, ho capito, così infatti stava con la macchina. Anzi, quello dell'altra mattina mi sono sbagliato, fare in profondità, accisi e abbaglianti. Eia, va bene che siamo in periodo natalizio, ma tutti i chiruzzi. Per cosa devo seguire al 5? Ho fatto avere una faccia un paio occhiali, ma vedi meglio. Eia, però purtroppo... Ascolta, a proposito di abbaglianti e abbaglianti, esiste, allora ti spiego, hai presente il PL dell'antenna, quello che entra dentro casa? Ecco, esiste un qualcosa che si possa, diciamo come una deviazione, no? Una specie di T che attacchi a quel PL dell'antenna che entra dentro casa, però allo stesso tempo che abbia due uscite. Ma per la radio? Per attaccare due radio, per non stare ogni volta attacca uno, stacca da uno e attacca dall'altro. No, c'è il commutatore d'antenna, un commutatore d'antenna, non viene come ti piace così, no, perché non l'avrebbe incontrato. C'è questo apparecchietto, le altre tangi ci sono, però non è che sono tutte buone, ce ne sono anche le altre marche. Infatti ne stavo parlando anche con Gianni, poco fa mi ha detto addirittura che ha trovato anche qualcosina in internet, ma io credevo magari di trovare un'altra soluzione per due motivi. Uno, perché prenderli da fuori sono cari, tra quello che costa più la spedizione magari che il commutatore, e poi per evitare magari di avere problemi, perché so che per questione mi pare di stazionarie, se non ho capito male o che cosa, vero già? Cavagava. Anto. Ma io una volta l'ho vista una T, cioè una cosa del genere, praticamente attaccava due radio più l'antenna. Io una cosa del genere stavo cercando. Chiappa, però non so se siano buoni, se vadano bene. L'avevo vista da Fusaro, non vorrei dire bugia, non è che me lo sta lì. Però se vanno bene io non so, quello non te lo posso garantire. Ma che fanno stazionare a Napoli, la sinistra a T. Sì, l'ho visto, poi io non so se vanno bene. Sicuramente saranno per ascolto. Oh, non lo so, ma sai perché? È per non staccare ogni volta il cavo da un apparecchio e attaccarlo nell'altro, perché se avendo due apparecchi uno lo tieni spento, magari decidi di usare questo, ecco, accendo questo l'altro rimane spento, e io penso che il segnale lo prenda tranquillamente. Commutatore, io prendo un commutatore d'antenna. Cava, e mi devo rassegnare all'idea. Pronto, l'antenna c'è, mi pare che sia a 3, a 4, a 6 e a 12, così è già. Scusa, scusami che sto parlando. squadrino. Ho detto che ho montato l'antenna, cioè mi fa partire da 2, 2, 4, 6, 8 e 12, così è. Però da 12 non l'ho mai visto, dico la verità, però se da 8 sì. Anche quello da 12, da 7G. Quello è veramente, perché al Trentino non si possono mettere, perché sono creatori di stati mari. Poi, quelli a T, le ho detto a Giuseppe, si muovono, fanno, l'ho messo con la L io in macchina perché si piegava il filo dietro il baracchino perché dovrebbe essere a fondo. E allora per evitare di piegare il filo avevo messo un commutatore di quelli a L. Sono tutti così, quelli si muovono prima o poi, si muoveva, alla fine decide un pezzo, ua. Sono tutti fatti male. È positivo, positivo. E vabbè, quando sa, ma la mia più che altro è un'idea, perché ancora le mani già funzionano per staccare l'antenna e attaccarla all'altro di apparecchio. Era giusto per avere un qualcosina di più comodo, però ciccia. Anche perché, ripeto, ho visto i prezzi e si chiama. Quello della Proxel ha due vie, diciamo con la centrale più di altre due, quella lì costa 18 euro, solo che poi ti fanno pagare il viaggio. E infatti io addirittura ho chiesto da Grassi e l'ultimo l'avevano venduto la settimana scorsa. No, se è buono lo prende. Qual è altro, ecco? Non lo so Pierpa, non lo so, non ci sono andato, però adesso domani è festa, dopodomani penso che qualcosa di aperto si possa trovare. Torino forse c'è qualcosa di quella. E allora provo qui da cosa, da Tonino, visto che qualche sconticino già me lo fa. Perché internet è quanto era? Già. 18 euro più le spese di spedizione. Quanto sono le spese di spedizione? Sì, saranno 12. Se prendiamo due rotture ci dividiamo le spese. Allora si può fare. Non credo che ti facciano pagare il tuo viaggio. Non penso proprio, no, se no cade come arriva se lo ripappano loro. Serve anche a me uno commutatore, però di quelli tra Proxel e Perpa. Se mi hai detto la Proxel, ma ti ho accettato per quello, perché quello della ZG ne ho avuto due. Lo sappiamo, pagato di persona. Però sono su eBay, non sono su Liguzzi, così su eBay, 18 euro. E non c'è quello compra subito? Sì, 18 euro compra subito. Allora, 3 e niente, io i miei soldi sono pronti. Le spese qui se vanno bene, 18 euro più il viaggio va bene. Sono 18, sono in pratica ti verrebbe 22 euro, perché sono 3x4, 12 e il gioco è fatto. Per me va bene. Allora va bene, tanto quando ci dovrò pagare 40 euro. Già, se vuoi io i soldi sono. E adesso lo ricerchiamo. Speriamo che il pagamento sia in contrassegno, se no si attaccano. Perché già? Perché PayPal io non ne faccio. No, tutto anche gli facciamo un vaglia. Cazzo, vediamo un po'. I metodi di pagamento non li ho controllati. Capa, vedi un pochino com'è. Nel caso che serva vaglia, lo prendiamo, lo compiliamo e poi vado io alle poste, non è un problema. Tanto io sino a 10 e lo posso fare. Per me sono pronti, Idem. Vediamo. Se ce l'hai sotto mano per far controlla tu, su eBay. Adesso c'è tutto spento. Anche io ce la sto usando mia moglie adesso. Poi non ne voglio rialzarmi, dopo lo controllo. Vabbè, ma il tempo per lo domani è il cammino, ci faccio da domani, che cosa cambia? Ne arriverà lunedì. Appunto, possiamo guardare domani. Poi se si può fare subito, lo fai subito e lunedì c'hai i soldi. E fra poco c'è anche la concessione da pagare, la tassa sulla concessione. Non si sa se è aumentata. Negativo, controllato, sempre così uguale. Io mi ricordo uno l'anno scorso, e non faccio nomi, che aveva detto 120 euro. Cos'è Giuseppe? Mi ricordo uno l'anno scorso, non faccio nomi, che aveva detto che era aumentata a 120 euro. Tu non ne sai nulla, no? A quattro a mente. La vaga, non male, io ce l'avevo pagata. Sei parlato assieme? Ah. Ho detto che quello è da far venire un colpo. Intanto la voglia, tra me ti ho detto di... se così, se me non ti conto la tua vacone, bomba. Eia, ma infatti poi ho detto, io infatti non avevo detto niente, ho detto cavolo, sono andato a pagarlo alle poste e non mi hanno fatto obiezione, e hanno preso 12 euro senza dirmi magari che è aumentato o cosa. Sì, va bene, 12 euro sono pronti, non è un problema. Io addirittura ho guardato il mio e l'avevo pagato, mi pare, verso febbraio, se non mi ricordo male, quando avevo preso il baracchino. Comunque mi pare che sia a gennaio, o sbaglio? Entro il 30 di gennaio. Quando è sbagliato, il 2 gennaio la sto pagando. Mi sa che conviene fare così, mi sa che mi avvicino alle poste prima che rientro al lavoro e mi faccio tutte le commissioni. Ma non si può pagare prima di gennaio, perché se lo paghi per esempio lunedì non vale, perché deve partire dal primo gennaio. Già lo so, faccio per il primo di gennaio, il 2, io sempre così lo pago il primo giorno. Ehi, ehi, ehi, sì, anch'io farò così. Prima che rientri al lavoro, tanto io rientro il 10, ne ho tempo. La prima o i primi della seconda settimana mi avvicino qui in via Coso, in via Bocino, e me lo pago. Ma che lo sa, parlano che ti do il zio, non mai si vecchia. No, più è la fila che devi fare che è 12 euro. Ma fumo un pacchetto di sigarette di meno? Ehi, i guadagni già ci sono, va. Già abbiamo incassato un po' per favore. Cosa? Ho detto i guadagni già ci sono, abbiamo già incassato un po' di soldi tra le sigarette che non abbiamo comprato. Capo. Infatti, come ha detto Giuseppe, ne fumo e si fuma un pacchetto in meno e si paga quello. Anche due, Giuseppe. Eia, eia, per me va bene. Faccio un fioretto, compro due pacchetti di sigarette in meno e quelli là me li conservo. Cazzo, a Capodanno deve essere dura e non fumare. Perché? E a chi fumare tutti? Fumare tutti? Vabbè, dove vado io, sì. Devo andare a Olbia a Capodanno, che c'è il concerto di NEC. Ma perché ancora non ti è passato? Come? Sì, a Puglia. E allora qual è il problema? Che mi fanno respirare il fumo. Vabbè, la ricordatemi quando eri tu, la faccio respirare a loro. Lo so. Ma io già rispettavo molte cose, finalmente chiuse e cose, è difficile che fumavo. Guarda, ma che maniera ingrugliata? Io? No, non io che mi ingrugliata, è che sono coricato. Ah, il picciamone sei, no? Sì, è di chi si bisanti, burro. Felpato. In file. Per arrivare l'abbiocco. Forse ci siamo cazzi gatti, Pierpaoli, prendi tutto. Ho detto già sì di poco, picciamone. Che ti riuscivi voi? No, ormai è tardi. Sta bene a casa, a calduccio. Un freddo per ora. Bisogna andare al locale chiuso. A vedete qualche spettacolo, qualche cosa. Allora sì che va bene. Ehi, aspettate un po', che già ce l'ho io un bel localino a chiuso, sotto le coperte. Io ci sono già. Sotto le coperte, scorreggio libero e via. No, chiappe aperte e vacci dentro alla grande, cazzo. Specialmente se inizia a fare effetto quella cioccolata. Mamma mia, cazzo, no, non nominarla, cazzo. Perché Giuseppe? Perché mi son, anzi mi ha preparato poco fa la cioccolata calda calda, calda. Mamma mia quanto è buona, però quando comincia a entrare in carburazione, cazzo, oh, vai correndo in bagno e abbassandoti le mutande. Che vi pare che un bazooka quando entri. Si vede la canna ruia, ogna. Sogna mia, come? Non so se avete sentito a 105 l'altro giorno, c'era questo gastroenterologa che stava spiegando come si fa a defecare. E non c'è bisogno di già sappiamo defecare, già. E vabbè, ma lui ci stava spiegando scientificamente. Ha detto che un muscolo si contrae e l'altro si rilassa. Se tu sforzi, molta gente si sforza, sforzando contrae tutti e due i muscoli. Per cui, contraendo tutti e due i muscoli, provochi emorroidi, anche di sanguinamento, eccetera, eccetera. Poi dice che non bisogna piegarsi mai quando si va mai, bisogna stare un po' dritti. Invece è così. Cava cava, allora mi metto il poggio a testa io da domani in cosa in gabinetto. Ma comunque si chiama Arretto. Se uno si mette in piedi, non le fa la goccia a goccia. Non in piedi. C'è gente che si piega quando è seduto, no? Che si piega, non ti devi piegare. Così, no, perché ho capito in piedi, perché sono in piedi, dicendo goccia a goccia. Io ho detto dritto, non in piedi. In piedi in campagna, quando ti nesce cacche cane, di chi si mare, gatta, e ti viene la cagarella e ti cacche tutto canto, fuggendi. Crema gamba. Ah, tu, fuggendi, dicendi, mamma che non so come io. E poi se non hai neanche un pezzo di carta dietro, non è niente per pure, ti tocca passare il dito. La foglia del fico. Ah, la foglia, il dito è meglio, e la poi ti rompi anche, beh, mamma mia, vai il tuo arroganz. Mamma mia. Ah, sapete quella barretta di cicciolina? No. Che gli era venuto un curso e della scena si era fatta fermare, la notizia della scena sotto il ponte, a quali bisogni? No. A un certo punto ha fatto e non aveva niente per pulirsi, allora Ma è pure la dica. Quindi bisogna stare dritti a mettere il lampadario. Guarda quello che vuoi, guarda. Interessante che non ti metti il giornale davanti, che già ti pieghi in avanti. Con il giornale ad avanti, barre rilassati. Oh, allora non mi posso parlare più il computer in bagno. Cosa Giuseppe? Che c'è stato? Ho detto, allora non mi posso portare più il computer in bagno. Ma che tu lo fai? Eia, però adesso mi porto anche il tavolino, così tengo la posizione eretta. Ma no, io c'ho il leggio proprio. Se il contenitore ha biancheria sporca, io lo prendo e me lo metto come leggio. Adesso capisco perché tanti virus. Cappa, no, il mio più che altro... Sei mancato di nuovo il giorno, Giuseppe. Ho detto che il mio non teme tanto i virus quando sono in bagno. Perché c'è la contraria che funziona. No, teme il ritorno di fiamma. Tu mai visto un ai a tu, mutandi alla griglia, quando ne esci da coso, cazzo ti fuma ancora la canna. Cazzo, se no quando ti carburami che fai entrando, non hai manco il tempo di girare la chiave, cazzo, che tu, dici, mamma mia, non sono eu. E meno male non esistono più i vasini come si usavano una volta in bagno. Una di uno usa poi l'urinario in capo, perché stava temendo un ritorno di fiamma. Oioioi, gli anni di boghi. Eia, e se no quando eravamo piccoli, mamma mia, cara casa, allora si metteva anche il vasino che fa sotto il letto. E la vedo morire da piccoli, come da tuffoli. Adesso siamo tutti sciriati, adesso mettiamo il deodorante, mettiamo quello, mettiamo quell'altro. Anto, invece prima, si chiovetto viaggio di guru, cazzo, sotto le lenzuola. Che tempi che erano. Oh, Pierpaolo, ti ricordi, non so se li hai conosciuti tu, quei letti che erano alti 1,70 m. Li ho conosciuti già con Matasso in Chino. Eia. Quando ti coricavi sembrava il letto dei fachiri, talmente pungeva. Io in paese da nonna a Giave, ne ho pigliato un'incramamata. E meno male c'aveva il pavimento in legno sopra, no? Cazzo, ma una di quelle cadute, cazzo, sono quicato, cazzo, 20 secondi prima d'atterrare. È vero, però, per quanto riguarda il vasionauta, è vero, però, Giuseppe. Eia, ma io ce l'ho conosciuto, non mi vergogna dirlo, no, anch'io l'ho conosciuto da piccolino, perché mica ti portavano da cosa adesso, da come facciamo adesso, da camera al bagno, c'era quello lì, cazzo, una sul patta la notte, tutti i canti biondi li dovevano ammazzare. Era questo tarolino. Eia. Che se ne abbia così curo, cazzo. Poi lo manda ad andare a Bisatti di Abelino che se vuoi rompere il treno. Oioia, cosa tutto non abbiamo conosciuto, eppure ci siamo fatti grandi. È vero, però, è il cazzo, quando uno ti avvia così culo, prima di piscio e tutto. E adesso qua ti mettono le tavolette nelle vatere, perché così come tiri lo sciacquone, cazzo ti va della canna profumata. Prima non veniva i biologi che andavano a controllare i batteri, i segretari, prima tutta l'imbrezza si va via. Poi io ho conosciuto gabinetti in case dove non c'era manco lo spazzolone, figurati, non solo di avere il deodorante per il coso, per quando ti lavi lo sciacquone. Case c'erano per fare certe sgommate di settimanali dentro. Io mi ricordo che sono andato in una casa una volta, ho chiesto di andare in bagno e mi ha detto guarda vicino interrato, fuori interrato, sono andato interrato, c'era questa cabina tutta fatta in legno e cose, c'era solo un comodo e basta, lui stava a malapena. Iaia, già è così. Passa di vecchio. No, a me è capitato una volta in via Montegrappa, era andato a casa di questo qua e adesso non mi ricordo, eravamo andati con un amico, che non mi ricordo adesso se per fargli qualche lavoretto, ma non mi ammetto perché un sacco di tempo qua. Comunque mi ricordo il fatto che dovevo entrare in bagno, mi stavo pisciando, no? E avevo chiesto a questo amico, ho detto chiediglielo tu che io vergogna, ho detto tu che hai confidenza. Beh, glielo chiede quello, sì sì, mi ha fatto entrare in cucina e dentro la cucina c'era questo coso fatto in muratura, proprio con due muretti, e c'era solo la tazza, poi in cucina. Mamma mia. Ed è esattamente in via che via è quella dove abitava quello lì. Guarda che c'è una ferramenta, via una traversa di via d'Italia, e come giri a sinistra c'è un ferramenta lì ad angolo. Via Principessa Maria. Bravo, c'è lì c'è quel ferramenta che mette sempre tutte, mette carriole e qualcosa lì sul marciapiede, quella abitava di fronte. KK. Eppure lì non è che siano così vecchie le case. Ma lui abitava sotto il livello della strada, perché mi ricordo che per entrare dovevi fare tre scalini in giù. Ah. E io ne ho conosciuto una, vabbè, vicino a Via Alghero che. Per entrare ci devi abbassare la testa perché è un cunicolo basso, per entrare si va giù in cantina e abita lì. Come io ne ho conosciuto case nuove, che un peccato di case, entrare in bagno, case un fianco di biscio, ientimea, cara, case che non si poteva rimanere in quel bagno, eppure case nuove. Vabbè, dipende della pulizia della persona, quello lì è. E la gente deve essere a tu, come entrava in bagno, poi deve essere o non era lavato giornalmente quel bagno. Ma ti dico il giorno, sono entrato, mamma mia, ho detto cazzo cos'è che cosa. Tu figurati che c'era il bordo di sopra del lavandino tutto giallo dal liscio. Ma io comunque ho visto una persona che non voglio fare nome, ma mi sono messo le mani in testa. E già lo sai, Buruddu. Guarda, ci sono situazioni molte volte che non sono molto simpatiche, ti dico la verità, perché non c'è niente da fare. Nella casa ci vuole la pulizia, ci vuole l'igiene, ci vuole il disinfettante, perché ci vuole. Non so un po', dai, mi è tipo, mi ha viaggio di culo, appena, Io quello che io di entrare nei bagni pubblici, una volta sono andato in questo bagno, dal piscio che c'era, ci galleggiavi con le scarpe sopra. Cazzo, mi è tipo. Oh, Giuseppe, con noi su, in via Leano, giochiamo il modulo abitativo, e c'è un bagnetto dentro, però quell'uomo lo tiene bello pulito, ci butta la varichina, e poi è un modulo abitativo. Ma vuole così Pierpa, anche se un modulo abitativo, quando una persona è pulita, ci puoi anche mangiare lì dentro. Poi lo sai cosa fa lui anche, molte volte per fare solo a pipì. Eia, e va bene, perché molte volte, guarda, conviene fare più così che stare in casa a punirti mille problemi. parla a due. Cosa da noi aiuta qua a visita io? Antoffia, Gronfio. Ehi, intanto con lei, queste macchine che mi bene, mi ha dato. Aggiunto, pareta che il suo deposito, poi fiacco di bistetta. Ehi, kappa, ma quando sono dette così per stare in allegria, già sono sempre belle cose, non è che uno rubate pappa, coso. Pare da un po', siccome si muove a pisciare. Ve l'ha detto così. Faccio una volta, va via, una bombola, che lo volessi bere a detto, l'ha già messa, va via, e ve l'ha detto, così, l'ha giubilato proprio chi, via, alla porta centrale, e dice, no, di festa così già va bene divertirsi. Cappa, ma culito cazzo, come te farà da la leggi proscende. Cazzo, qui hanno sparato un bei ieri. Vicino dove c'è casa tua. Eia, eia. Io gente a Capodanno. Cazzo a Capodanno. Mi sono Oh, Giuseppe. Ehi, nascondersi sotto il letto. Il tuo microfono è come se andiamo a primire palle. Gatto a gatto. Sai guarda cosa volevo? Una di quelle cartucciere. E di quali? Quelle per mettere le cartucce del fucile. Ah, e cavolo, la vacca di Dinacco, cani vissi, sono tutte in pelle. Già lo so, ma noi che ci siamo tre cartucce e fucile, ci siamo tre petarde. Radio 21, brava. Ehi, Lucchetto, buonasera e ben sentito, auguroni. Ciao, Giuseppe, a te, auguroni. Ma devo contare il primo del pomiso. Mi sono addormentato, sono qua a 91, mi sono alzato un attimino, mi ha chiamato mamma per la cosa, poi mi sono sdraiato, boom, facevo il baracchino con quel volume un po' sulla sguardo, sentivo questo bip, bip. Sarà il mio forse. Ciao, sei Giuseppe. L'ho colto adesso. Sono Gianni, blu, faccio rosso. Ciao, sto qua. Pochi minuti fa, questo è più penetrante, penso. No, tu è proprio... Non è penetrante, non è penetrante. Così, io fa... E per giù, come va? Come va? Ma, via. Un po' di raffreddore, Giuseppe, dato per cambiare. Poi adesso... Ho mangiato, bevuto quasi niente, però ho mangiato tanto. Su uomo se lo a casa questo. Certo, non sono baracchino. Allora, baracchino lì, io lo conosco prima di te. Perché non dico il primo che l'ha avuto, è un amico, e poi se l'ha venduto perché diceva andava bene. Questa è la seconda versione. Qui è sempre uguale, capito? È uguale, si poteva mettere anche l'ecco dentro, c'era la predisposizione per mettere l'ecco. No, io... no, è già tutto, è tutto compresso, c'è anche l'ecco, cioè. Io l'ho lasciato così come me l'hanno dato. Ah, c'era l'ecco? Non lo senti, ho là. Ah, non è il microfono quello? No, assolutamente, lui è. Bravo, c'è bene. Non hai capito, no? Questo è tutto lui, non è il microfono, no. Il microfono è quello con la down. No, è tutto dal baracchino proprio, non è il microfono. Adesso ci avevo messo il DM1000. No, va bene. Ma ti volevo dire... Ma lo puoi regolare l'ecco, ho sempre così, così rimane. No, è così dalla casa. Io non gli ho toccato nulla a questo paracchino, ho solo attaccato il figlio e basta. Yeah. Ma c'è l'altro, quello qui magari forse magari la seconda versione, sarà predisposizione per mettere l'ecco. Ce l'aveva messo Gianni, mi sembra. Stava provando a metterlo Gianni. Guarda Giuseppe. Avanti Giuseppe. Sì, sono qua. Sto controllando una cosa. Gianni, c'è poco fa Gianni. Ma c'era anche Gianni, solo che ha il telefono con Babbo. Ma tu eri convinto sempre che io ero col DM1000. Io quando ho questo apparato non compro più batteria. Mi hai scommesso, guarda, se tu non lo dicevi, io ci ho messo scommesso, vi ricordo il DM1000. Ma adesso te lo tolgo, come? Chi credo ci mancherebbe? Andiamo a vedere come esce, senza niente. Lo può anche lasciare il bici, ma ho tolto anche quello. Quanto passaggio? 2-3 prova. Va bene. Bene, è vero. Qua c'è il compressore, c'è 1000 ohm la capsula, è quella piccolina, non è l'altra, quella dinamica, questa qui è l'altra, c'è le... non riesco a dirlo io. questo è il microfono, è l'unico per questo apparato qua, non ce ne può mettere altri. Io ce l'ho attaccato di M1000 ma fischia, perché l'apparato va già bene così. Lucio, non sei contento? Ma non sprechi batteria, non sprechi niente. Uia, casino questi marattini. Ma poi questo fa anche un'altra cosa, la stessa scheda fa anche i canali, questo è un sistema particolare, lo accendi, lo c'è il codice, diciamo, è diverso dagli altri apparati, e puoi mettere le bande che vuoi. Questo ti dice, cioè non è come un baracchino come quello che hai tu. Questo qua, se vai sul 45 ti segna fino a 99 e poi segna al 100, 00. Ma 100 canali fa e basta. Ma cosa? Questo? Tu anda, anche di voi anda. Questo qua, se tu hai, lo fai andare. Fa 41, 42, 43, 60. Cioè, è sempre così, mi hai capito? Fino al 00 che è il canale 100. E mi hai detto, 100 canali ha? Tu se ce l'ho, ne hai di più, quanti ne ha? 200, 300, 400, 100. No, poi per andare sotto devi fare un'altra operazione. Devi accenderlo, tenere il tasto rosso premuto, lo accendi, lo riaccendi, devi cambiare il codice. Capito. A, B, C, D, E, F, G, H. Qual H arriva, Lucia? Non lo so, dovrebbe arrivare. È un po' tutto particolare. Perché già io non lo tocco più perché un giorno me l'ho incasinato. Poi mi segnava 00, non andava su altre bande. Hai capito? Perché c'è anche... perché questo qua c'è anche solo gli alfa. Se tu adesso metti un codice ti dà solo alfa, capito? È un monorato, sì. Eia. Poi questo qua adesso, per come l'ho impostato io praticamente, se tu vai sul 3 alfa, sul 7 alfa, lui ti segna il puntino, capito? Cioè ci va subito automaticamente, non è come gli altri radio. Io adesso schiaccio solo l'up down e ci vado subito sui canali alfa. Ma così è nato così o è modificato tutto? No, è nato così, cioè è fatto da tecnocomunicazione. Io non ho toccato nulla, non ho modificato nulla, l'apparecchio è come me l'hanno dato lui. Bene, colpi da prendere. No, quello assolutamente, no, non mi rompo le palle nessuno a me con quello. Ma aspetta, ma allora, beh, Timino, ok, tu hai visto, non ci interessa niente, cos'è che è Napoli? Allora, aspetta, allora... questo, aspetta, eccolo qua, praticamente c'è quello della base sopra, la foto di Facebook, quello della base sopra, quello che ti sono adesso, la Intec, quello lì è, col microfono vero. 550 power, K, mica è rientrato Gianni, è stato anche babbo. Giuseppe, ci sei? Ciao Luca, tanti auguri. Il 550, vai e ci vedi. Qualche attesa, ciao per qualche attesa, auguroni. Sì, quello che avevi tu già, quello lì è. Esatto, solo che lui c'ha il nuovo modello. Infatti, ma c'è anche Claudio quello, quel baracchino lì. Va bene, va. Questo va bene. Sono venuto qua per vedere, non mi ricordo. Poi ce n'è un'altra tu. E dai, grazie, che c'è, vedi? Aspetta. È quello grigio, che macchino è? 2009. Sì, quello... quello tutto argentato. È argentato, eh. Cappa. Quello che quando in quella foto dove ci sono io, quello lì, quello di sopra, sopra con quello grande, quello lì è il mio 550. Già, va bene. Sì, da. Giuseppe, non c'è più. Giuseppe, ci sei. Ma faccio qualcosa già. Fa cappa. Già va bene quell'apparecchietto, in macchina che non va bene. Troppi rumori si porta, no? Eia. Come del QRM, brrr, tutti i rumori della macchina. Quando cambi la macchina, brrr, si sente proprio nel baracchino. Certo, ma quello non è biglia, però. No, quello no, quello non è prende. Ma è quello, è nel 48 BSX. Non male un bel nemmeno. Mi parla che macchina lo metti già. Certo, se lo metti la lappa non è mai che lo fa. Certo. Non è la mia pure lo faceva. Ma va. Strano. Hanno costruito un apparecchio. Cioè va bene, ma io non è che non va bene. Fai un qualcosa che è mortale, la macchina non ti faccia rientro dentro. Allucinante. Sai cos'è? Non calcolano molto che sia per un veicolo mobile. Magari pensano che li usano in casa e cose, quindi non li vade. Perché il 48 non è un bel apparecchio. È bello robusto tutto quanto. L'unico difetto che c'è è che piglia splatter e rumori di sottofondo, rumori di motorini, tutto quanto. Allora io ti dico una cosa, col BSX io mi trovavo sulla WD-WD proprio a livello di Gio Maria e di cose di come si chiama, di Mario Mau. Allora io stavo parlando, Gio Maria era un altro canale, io non lo sentivo, Massimiliano dalla 131 ha detto che lo stava splatterando. Cotto. Lui, Massimiliano era con l'Alan 48, quello modificato. Io ero col 48 modificato, non lo stesso, però col BSX. E io non lo sentivo proprio nulla, nulla, nulla, ed ero attaccato a casa sua. Massimiliano dalla 131 non lo sentiva. No, vabbè, sono baracchini e baracchini. Ricordi quel famoso... acquisto avevi fatto tu, l'MB40, un alimentatore, ti ricordo il baracchino? È quello che va a te, sì. Sì, sono un bigliano a Goetti, minchia, guarda, me lo sono pentito da quando là, non veniva a colpi di niente, zero, zero, era proprio allucinato sul baracchino. E con tutto che era anche modificato, c'era una camera ecco, tu non hai calcolato che era un apparecchio serio quello lì? Oh, vabbè, no. Lo so, però guarda, ti giuro, non tornavo a colpi, era talmente muto, era muto, era proprio fraco, mi sbattava due o tre canali, non di più, mi sbattavo tranquillo, niente, attaccavo l'altro, oh mamma mia, gli attacchi mi venivano, attacchi epilettici. Io lo sai, ma io ho avuto anche due Alan 48, anzi ne ho avuto di più, ma due in particolare li usavo molto in macchina. Quando era il 48, che era normale, poi l'ho fatto anche modificare, però lì mi dava abbattimenti zero. Quando passavo sulla WD-WD a livello con Gio Maria mi faceva abbattimento zero e non riuscivo più a sentire nulla, nessuno. Vabbè. Troppo. Sono così i baracchini. Cosa... Ma non lo faccio, si a vedere. Perché si vede? Dove andare per vedere per una sola persona già? Oggi ecco qua, il mio fratello, adesso l'ha messo una data di nascita su Facebook. Ma non ce lo va a fare. Perché? Cos'è? Compriamo? Oggi 25. Non dipende da quello che scrive lui, Io ho fatto gli auguri per di Antonio, Antonio aveva scritto un'altra data sicuramente e risultava un altro giorno. No, negativo. Ah, vabbè, poi bisogna vedere, comunque qua è... ce ne sono due compleanni, capito? Compleanni di... ci sono due compleanni qua. Uno è il 1998, un CB di fuori, continente. E poi c'è un altro. E sono nati il 25 dicembre. E anche mio cognato, infatti mio cognato risulta. E come cavolo si va per vedere tutti i dettagli? Ah, c'è prof... no, aspetta, c'è qua. Vabbè, da me posso andare, fica profilo, no? No, anche, vedi? Line, vabbè. Sì, con la verità, una volta mi è comparso, ma non so manco come. E avevo sbirciato tutti i compleanni, tutte le cose. E... insomma, se comprano questa amica e cosa, sono andata a fare gli auguri il giorno dopo. E mi ha detto, ma mica oggi non è il mio compleanno è fra due mesi. E perché, non li ho mai sono andata così. Sì. Mi avvigura. Ti ripeto, non appare qua, non appare perché sicuramente avrà messo un'altra ratta. Dopo gli palle. E allora, per camuffare, anche c'è gente che non scrive neanche il nome e cognome suo. In effetti io questa cosa del nome e cognome all'inizio mi risultava un po' così, ma poi l'ho messo, tanto non c'è un attimo. Avanti Giuseppe, se ci sei. Non c'è. Riprendi Antonio. Giappa. Oh, ma non me ne importa nulla. Beh, c'è molto così, ma però... senza il cognome. Però... dalla bambina non mi importa nulla neanche del cognome. Però ci ho messo i miei dati. Eccomi qua, arrivato, Sugno. Cappa, riprenditi allora. Mi c'è Luca. Sì, Cappa, saluto Luca, però... infatti sono entrato per salutare perché Pierpaolo va a fare... devo fare delle cose, quindi vado a farle. Saluto tutti, circolari a tutti, tutti, tutti, così non dimentico nessuno. Ciao, buonanotte, ce la riscoltiamo tutta domani, o quando capita, ciao. Ehi, ehi, ciao, ciao, Pierpaolo, buonanotte, ci sentiamo. A Pierpa, la prossima, buonanotte. Cava, cava, avanti, riprendi già. Ehi, e io riprendo, che faccio un mal di pancia, chi c'è la cosa che ci ho mangiato? Sicuramente. Devo proprio dire, mi sono dimenticato un dettaglio. Anche Collo, Natalino aveva comprato quell'apparato piccolo, non so se l'ha mai visto, l'ha preso dopo di me. Chi insomma adesso non piglia colpi di nulla. Ma sì, è vero. Lo so. Ho visto. Cioè non mi fa vita di mangiare, cazzo, qua, intendi? Non c'è una banza, oia, cioè, perché io, ripeto, faccio 2 anni, però mi sono mai visto con la faccia così. Era mio cugino, lui fa 34 anni, io sono fibbiato, secco. Cioè, se sono quelli così, sono un po', sai, com'è, no? Mi sta preoccupando. No, cioè, una puttassa noia, mi sto preoccupando, però dico, se tutti i rumi sempre magro, no? Cioè con, come si chiama, con addominali, e poi ti trovi così con la pancia, è un casino, compreso. Ma sa lasci un po' con la bocca. Cosa tu mai niente? Adesso mi ha chiamato mamma poco fa, ci ho mangiato un po' di dolcini. Sto sempre mangiando, cioè non posso fare. Adesso, in questo momento non ho fame, ma più tardi, verso mezzanotte, l'una, vabbè, c'è la benedire qua, c'è la fiesta, poi là, nell'altro mondo c'ho i croissant, perciò non c'è problema. E tu, ma lo sai cosa c'è? E anche io sono così, ma mi mangio frutta invece che mangiare altri pasticci. Per dire, io metto al computer, prima mi accendevo la sigaretta e adesso mangio un mandarino. Cioè, la frutta l'ho mangiata, io non mangio frutta. Stavo cercando No, ma come sono trovati buoni? Non essere sincero. I cacchi mela. No, questa, buoni. Quest'anno no. No, e trovo sempre le spine. Cioè, non scende, non essere, troppo. Veramente, guarda, veramente buoni. Buoni, buoni, buoni. I cacchi mela già sono buoni. Se ne sono maturi al punto giusto, sono buoni. No, io mangio crudi, li mangio, assolutamente. Sono buoni. Vabbè. Ah, tanto riprendi, ti faccio una cacchi mela. Sì, te li mangio già. Non mangio tutti i tipi delle cacche. I bibiso, quella normale, cioè, tanto uno di sé non le guarda, non le ho mangiato, mamma mia. Mi ho mangiato un bombe. E poi se lo metto me ne mangio anche 2 kg. Lo stomaco mio, in confronto a prima, non mangiavo 2 ed era pushu. Adesso si è fatto più... Sì, c'è già. Si è allargato. Dilattato. Sì, dilattato, non mi ricordo la parola. Si è dilattato di brutto anche, di brutto. Guarda, allucinante. E ho mangiato, guarda, le 3, Luci. 3 qualcosa era. Avessi a me come dovevo fare, io ho mangiato, mi sono dato un bel piatto di cose, di ravioli, bello pieno, poi sono messo i pezzi di pollo, stavo bene la vita, e poi qualcosina così, poi di dolce mi sono mangiato, sono avuto quasi un bicchiere di spumante, bello così con una mattina data bella azzurra. Se in compagnia posso anche bello, ne posso mangiare 2 o 3 bottiglie, ma così da azzurro non mi biglia male. E poi alle 6:30, se circa 7:20, io avevo fame. Ah, a me lo sfumate, hai visto un goccetto, tanto per non dire che lo brindo, ma mi fa molto effetto, mi fa venire il mal di testa forte. Dice che non è buono. No, anche a me lo fa, già, tranquillo, non si dà solo. Lo fa anche a me. Però, me lo metto anche mezzo bicchiere, per dire, no? È un buon gusto, no? Tipo sapore del vino. Però mica non voglio perdere chissà che cosa. Io te lo stesso. E tu, allora mi vado a mangiare il gabbo. E invece, grazie a Dio, no. Non sei sincero, non ho fatto mal di testa. Di solito mi fa mal di testa, anche mi tiene di birra, mi fa mal di testa, ma forte. E poi lo voglio già fare, non ti puoi prendere la pastiglia. Ma la birra, invece lo sono fatto sì. Ma ne ho bevuto ieri, un goccio di quello, tipo il vino tipo spumante, però c'è sapore dello spumante gassato. Ed è un bel buono, ma naturale. Ciao. Sì. Allora, la situazione è questa. Lo spumante fa mal di testa perché non è di qualità buona. Se lo spumante è di qualità buona, ma di testa non te ne fa, perché io so già, mi comparava uno che fosse da prezzo, bro, certo mi crepava, ogni ammazzicato. Nel mio corno ne ho preso un altro, di quelli buoni, di qualità, e ma di testa non me ne faceva. Boh, può darsi anche quello. Sì, no, perché è scarsa qualità, è per quello che ti fa mal di testa, che non è buono. Ma c'è la Simone in mezzo, ha ragione Edu. Lo fanno, adesso per esempio quando l'ho comprato io ho pagato 1,30 la bottiglia. Ed è, si può bene, devo essere sincero. Però bisogna la Simone di Trento. Però se tu ne prendi uno buono di qualità, lo paghi altri 10 euro, forse per me uno spumante è buono. Ma poi non deve essere secco lo spumante, se no non mi piace. Proprio dolce, dolce, no, molto dolce, però deve essere un dolce. Mezzo di bussiame, frizzantino dolce. Secco proprio, nemmeno lo champagne mi piace perché è secco. Ah, tu? Ah, non ho più vinto, mamma mia. È sciugatura di peli lo champagne, no? Non mi piace questa cosa. No, no, è un buono spumante, è migliore dello champagne. E a voi? Uno spumante dolce, moscato. Che sia uno spumante, cioè, di qualità, piuttosto che quello champagne. Se lo fate in bagno sacco di nama, per me è sciuccatura di peli, a me non mi piace. pagato. Ah, per pa, ah, ma per pa se è andato Giuseppe. Che da Rumi. Ma facciamo cosa ha detto? Ma ne chiamano champagne, per come io l'avevo mamma bevuto, non sei sincero. Poi per come la mano ha detto, è uno spumante, cioè un vino secco, no? Uno fa per me. Pino di Pino mi ha bevuto, ne? Pino di Pino. Pino di Pino. Pinotti di Pino. Esatto, è lo stesso metodo di quello lì. Lo champagne è così, ha quel sapore. No, ma non... Mi portiamo sfumati di dolci. Quello lo bevo tranquillamente. Perché proprio non ho un gusto, no? Ma non mi dà vini, sì, lo bevo, dipende da quello che sto mangiando, anche, ma non più di tanto. I tipo i vini filieri così. Se non parlo non così, ma non si vara. Ma noi stasera già avevamo vini buoni, di Usini, un rosso di sorso. E poi un bianco della zona di Nuoro. Ed era frizzantino come uno spumante. No, no, buono. Ma cosa tu hai già a campagna? No, oggi eravamo da mia suocera. Ieri eravamo con amici in una villa. Noi siamo stati benissimo. Poi a mezzanotte siamo andati in chiesa. Cavolo, ci siamo buffato ieri, Ieri era tutta a base di pesce, però tutta arrosta e graticola, calamari, gamberi, gamberoni, là. Insomma tutto in graticola era. E poi c'erano le ostriche che erano ben buone. Ma un tanto a testa, la spesa così. E allora, è fatto così. 50 euro a testa c'è riuscita la roba da buttare. Ma che famiglia avevate? Avevamo 4 famiglie. Che tavola! Cioè ogni famiglia 50 euro usi? 50 euro a testa abbiamo messo. Ma a testa la famiglia? Qualcun altro si è andato. Famiglia. Mi sento praticamente. Sì, ho comprato calamari, gamberi, anche se congelati, ma diciamo che erano molto buoni, infatti da lì ci ritorno, lì ci sei mai andata a comprare i gamberi, sono ben buoni. Alice, a Predanita, praticamente rimane dove c'è sali, si sale in quel ponte e poi devi girare, dopo il ponte devi girare sulla destra. No, un amico ha fatto per i gamberoni, L1, buoni, due sui gamberoni, 2 kg 22 euro. E L1 sono i migliori. Poi sono gli L3, che sono un po' più piccoli là. L1 già, 22 euro 2 kg. Ma una gamberone, grazie, la fine del mondo. Non sono rimasto ancora contro il chilo, vai. Io dico la cosa, che quelli lì non erano manco stopposi, erano veramente buoni, mi sono piaciuti, li abbiamo fatti in due muri, arrosto e tradizionali in tegame, ma quelli in tegame erano ben buoni, anche arrosto, però rimanevano più buoni gli altri che rimanevano con la salsetta, che a me mi piace un bel. Fatti un vino già. E allora? Sì, avanti a tu. Ah. Vai, c'è pomodorini per te, monaglio, peperoncino. Carne. Ehi. Ma passiamo alla voce della mamma, ma l'abbiamo invitato ovviamente. No, siamo andati così, è normale, abbiamo organizzato tutti insieme. No, non siete andati a casa di qualche famiglia. Ehi, a casa di una famiglia siamo andati. Io non ci riuscirei a fare quella cosa. Che cosa? Ci può fare la testa. Queste cose qui si organizzano così, si mettono una parte per uno, poi ci siamo scambiati i regali, tutto quanto, uno ha fatto il regalo all'altro. Non è che si fa per male. siamo stati noi stessi a dire mettiamo tanto a testa, così almeno non pesa nulla addosso a loro, capito? Una cappagliata. No, io sono un altro carattere, se invito gente a mangiare no, non ci riuscirei a dire 50 euro a testa, cioè mi dà fastidio. Ma noi l'abbiamo sempre fatto, cosa facciamo queste cose qua? Solitamente andiamo a mangiare, ci invitiamo una a casa dell'altra e cose. Però quando facciamo queste feste qua ci mettiamo tutti d'accordo, loro hanno una grande taverna col camino, tutto quanto, televisore mega galattico di quelli a cosa LED, è enorme, sembra un cinema. Chiappa. E vabbè, no. Preferisco di no, cioè no, non è proprio una cosa mia, no. Non ci riesco io, non dico la verità. Io, ma non la vedevo lo suo, noi pensiamo che così vada bene, siamo sempre trovati bene così, e dopo non è che mettiamo solo i soldi, no? Ci portiamo per dire qualche cosa, vino, uno c'ha il vino di uso e lo porta, l'altro porta il panettone, l'altro porta questo, e come si fa? Tutti fanno così. Perlomeno io penso che la maggior parte della gente faccia così, che non vada nessuno a mani vuote. Ah, quello sì, quello sono d'accordo con te. Ah, di portare una cosa, di portare l'altra, sì, quello è un gesto giusto, ma di portare no, questo non mi piace, cioè, per quello lì è una teoria, può essere sbagliata, però no, non mi va. Luca. Vabbè, dipende, se si fa un grande annuncio ognuno mette soltanto 20, 30, 40, 50, di su via, poi magari ne mette 20, ne mette 30, poi porta vino, porta gamberi, quello che ha, no? Poi gli altri comprano la rimanenza con i soldi che devono mettere, e vabbè, mi divertito. Io sì. Abbiamo anche cantato al karaoke e siamo stati bene. Pensate a quello. E infatti. No, ci siamo divertiti. Solo che poi a mezzanotte siamo andati in chiesa. All'una meno un quarto. L'una, dai, ha finito la messa. Siamo ritornati di nuovo lì, non ci siamo dati per persi, no? Panettone di nuovo, sguanti, vai che ce n'è. Mi sembrava un pezzo di rubizio, fuato, No. Di bello c'era che non c'era nessuno che fumava. Nessuno. Sono stato fortunato che, però a Capodanno sì, a Capodanno devo andare a un concerto a Olbia e di fumare tutti. Ma non fumare solo sigarette, ma anche spirito. Cosa vuoi fare? Fumare voi? Eh? Cosa vuoi fare? Fumare voi? No. Ma dico, mi faranno fumare a forza. Perché il concerto è all'aperto, quindi... Cioè, c'è gente che come l'altra volta siamo andati a vedere Laura Pausini. Poi non vedi niente, fumo di spinello, un fiago, non si può dire assai. È una cosa normale. Quando vanno nei concerti così il fumo d'accordo si portano la scorta. E mia Giuseppe parlando, non avete sentito voi, meglio lo sento. Giuseppe, sei piccolino, alzati. E ti stai Giuseppe, se mi ascolti tu a me io ti ascolto, ho detto, non so se mi ascolti tu a me io ti ascolto. Ma ti sento forte, ma ti sento. Ma non ti senti Antonio, ma tu. Scappa, non lo sento, deve essere col portatile. Io lo sento piccolo. Tu, ma che portatile si può aumentare la potenza? Ma c'ha quattro posizioni, uno, no, forse ne ha cinque, non me lo ricordo bene. Allora parte da un milliflat. meno di un watt. Un watt e poi parte al massimo che sono 4 watt effettive. No, le 4 watt devi attaccare le cose, se no te ne succhia le batterie perché sono effettive. Mi ricordavo che dava di più di watt, no? Chiappa, sono 4-5 watt, non me lo ricordo bene. Poi c'ha il compressore sia in modulazione e sia in trasmissione, cioè praticamente entra il coso ti fa sentire i segnali più deboli, te li cattura meglio, hai capito? E poi anche in trasmissione ti dà una qualità di voce molto buona. Chiusa. E cosa se non posso parlare? Se lo disturba Veronica, magari sta dormendo. Ma l'hai visto lui, quel portatile lì? C'ha lo smitter, c'ha il coso, tutte le bande anche, A, B, G, H, D, tutto. Non so di quale apparecchio stai parlando. Intec H520. Portatile? Ma è un portatile di creazione che ha fatto la Intec, che è un portatile che è uno dei migliori in assoluto. Giuseppe, guardatelo e vedi tutte le prestazioni che ha. Ascolta, se non aspetta radio Rai, tu hai radio 2, io lo senti meglio? Io sì, sempre bene. Tu aspetta un attimino, allora, aspetta, allora, perché vabbè, ti chiamo Facebook, ma non mi interessa più. Dimmi a tu, vai, com'è il nome? Intec H520. Che c'è, guarda, cosa facciamo su YouTube? Aspetta, vabbè. Eccolo. Intec 520 Plus. AK. Bello, bello, bello. È un giocattolino molto bello. Dove è lo smitter? Sì, c'è lo smitter già. Dura anche il coso. Secondo a che batti lo metti, alza pochetta, al massimo alza tutte le sacchette. Perché ha un sistema che bisogna schiacciare, si abbassa il watt, se lo aumenta, c'è un sacco di prestazioni. Troppo. Ora come sembra che abbia lo smitter, normale. Come sembra che abbia lo smitter? Mi sembra, c'ha lo smitter, te lo posso assicurare perché modestamente viaggio. Perché la rago? Sì, c'è lo smitter, sì, digitale. Ah, digitale, Antu, lo smitter è una cosa, il coso digitale è un'altra cosa, Antu, Già, sono un digitale già. È digitale. Ma stai tranquillo che non ho visto... C'è tutto alla testa, non ha niente a... Cioè, come che tu abbia un barattino come questo, dai, come il tuo barattino. Tutte le bande, tutto. Vabbè, ma ti ho detto, c'è lo smitter. C'è lo smitter digitale. Ma è piccolino, infatti. Vabbè, molto piccolo. Cioè, tu chiusi a quello. Sto perdendo, Gianni. Oh. Ho tutto passo basso. Io mi stavo mezzo dormendo, mi pare che vi saluto e me ne rimango un po' all'ascolto, poi faccio quel ritira. Ci sentiamo, buonanotte a tutti, a domani. Ciao. Ciao già, buonanotte. Allora, c'è anche canali Alfa, c'è tutto e di più. Questa la salutiamo Giuseppe. Ciao già, buonanotte, alla prossima. Non la sto guardando tu. Allora, costa 119 euro, 114,90. Ma guarda, gli vale tutto quel prezzo, se lo vale tutto, lo... è veramente eccezionale come portarsela. Ci sto guardando. Ma per portarti dico, sarà castri odio. Piccolino, oh, allucinante. Sto parlando di sigarette, sti video. Sì. Oh, vabbè. Via. Quello va bene magari quando si macchia così, ma non è che siamo sto granché portatile. Io ho iniziato con portatile mi andava a mancare l'ultimo. Tu sei convinto, eh? E quello lì c'è anche un attacco particolare, che se tu guardi bene quello lì praticamente c'è un attacco che si attacca sia all'accendisigari della macchina e sia al coso, all'antenna. C'è un attacco che è a due, è particolare e va alla grande, lo puoi attaccare anche con qualche all'impianto di casa, se tutto quanto. Ma ti dico che va bene quello, quello lì è uno dei migliori che ci sia in circolazione. Via. Vabbè, la rimasto. Faccio male, bagno. Accute da piccoli e poi spengo tutto chi provavo subito. Cappa. Stavo, ti volevo dire, lui, mi sono dimenticato, questi nuovi che sono usciti, questi baracchini qua, c'hanno fino alla mostra. Questi, ma questi portatili, stai dicendo? Anche quello lì. No, dico, anche questo Intec che io ho qua, non ha i finali come quelli di una volta, una mostra, insomma, come i 747. Oramai stanno uscendo tutti così, che fino alla mostra, cioè mi stupisci già questo qua. Capito, mi stupisci. Mi stupisci già questo qua. Ma se guardi lo schema elettrico, lo vede. Raffredda un po' più freddo. Sono pronto un altro finale. Cioè, come tu smetti di parlare, se fai molto poi se ho, in due minuti, però sto con Raffredda. Sì, che sta a fare Giuseppe. E hai castigato. Ciao Giuseppe. Buonanotte, ci sentiamo alle prossime. Ti saluta Giuseppe a tutti. Ma buonanotte Giuseppe, forse lui mi sentirà. Ciao, non lo so se ti sentivano, però lo sentivo più basso adesso. Vedi, vabbè. Vediamo che ti dica. No, portati di zero. Ci hanno in bagno, va. Tanto 5 minuti, ogni giorno ti saluto e spengo tutto. Mi vedi a sentire, buono se mi dice la buruetta. Cazzo, decisamente di bale sul gale. Cappagato. E vi sono utili anche quelli, dai. Vabbè, dai. Ciao Lu, allora, zia. Tanto, ci sentiamo domani, se ci siete, dai, domani sera. Già tardi qua. Basta, già dormendo, voilà. E niente, buonanotte, a domani, azzu. Adesso vado in bagno, spengo tutto, mi si blocco, chi... Non ci più gara, insomma, da 9:30 questa mattina in piedi. Ciao, buonanotte, Lu, dai, ci sentiamo. Ciao.